Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo. Bentornati all'ascolto, il nostro programma, come di consueto, anche di Riccardo Silvi, il nostro redattore, Valerio Rocchetti, il nostro regista, e oggi sarà della nostra guida. Diamo il benvenuto insieme a voi a Alberto Salza. Buongiorno. Si definisce antropologo freelance per la Sperling e Kupfer, ha appena pubblicato Niente, come si vive quando manca tutto, antropologia della povertà estrema. Uno sguardo veramente molto diverso e molto interessante su un mondo dove, si è detto anche recentemente, qualcuno aveva scritto la ricetta per tutti e poi la falliva persino a casa sua, insomma. Penso che sia proprio il problema reale. Abbiamo inventato una globalizzazione che ha frantumato gli esseri umani e li ha resi tutti più individui e in qualche modo non siamo riusciti a affrontare, non dico risolvere, ma affrontare nessun problema. Ora, questo sguardo sulla miseria, sul niente, come si vive quando manca tutto, antropologia della povertà estrema, è uno sguardo, dicevamo poco fa, sul mondo. Anche perché poi in realtà l'antropologo riesce a ritrovare delle strutture, chiamiamole così, culturali, tra virgolette, con diverse forme, in diverse parti del mondo, anche se poi nella loro differenza in realtà parlano tutti la stessa lingua, cioè come sopravvivere, come organizzarsi quando si è malati e non si hanno le medicine, come organizzarsi quando si ha sete e non si ha acqua, come organizzarsi quando si vive in città invece solo un inferno di lamiera. Sì. Il problema reale è che gli antropologi commettono un errore. Confondono individui e gruppi. Io invece sono un sostenitore del fatto che gli individui sono come le particelle subatomiche, hanno comportamenti imprevedibili, probabilistici, per cui ogni volta è una nuova scoperta. Le strutture, che sono anche un po' passate di moda in antropologia per fortuna, in realtà individuano nei gruppi quelli che pilotano il cambiamento, che si muovono. E invece questo grande muoversi di piccole persone, piccole nel senso che non le vediamo, ma in realtà sono enormi persone in grado di vivere in condizioni che noi neanche ci immaginiamo, che stanno dando una forma del tutto nuova all'umanità. All'umanità come specie e all'umanità come cultura. E noi semplicemente non ce ne accorgiamo perché non sappiamo leggere. Ma io ho scritto anche recentemente relativamente a, diciamo, l'ultimo viaggio del Papa in Africa, di questa specie di afropessimismo cronico che abbiamo in testa, per cui in realtà si muove il Papa, va in Africa e abbiamo le orecchie piene di persone che con la scusa nobile di dare voce a chi non ha voce ci stanno riempendo la testa con i loro gargarismi e i loro ideologismi, mentre in realtà forse sarebbe il momento di cominciare a sentire, per esempio, l'Africa raccontata agli africani, il Bangladesh raccontato da chi ci abita. La voce degli altri è veramente l'unica fonte che possiamo avere per entrare in rapporto. Sta diventando molto difficile perché le loro voci sempre meno vengono capite. Vi faccio un esempio. Ero adesso in Sud Sudan a occuparmi di progettare una città ex novo dopo 32 anni di guerra. E un ragazzo mi ha detto: ma lo sai perché noi non siamo sviluppati? Si fa sempre un po' i condiscendenti a riguardo, i paternalisti: ma sì, caro, dimmi pure, figurati. Dice: beh, noi condividiamo tutto. Voi siete fortunati perché siete egoisti, qualcuno diventa ricco e di conseguenza può aiutare anche gli altri. Un secondo mi ha detto: guarda, mentre siete qui ad aiutarci, perché non ci fate un bel country club? E io ho visto veramente la luce a quel punto. Ma certo, ma perché dobbiamo continuare con una carità materiale che, come dice uno scrittore iraniano, è quella che rende l'uomo simile a una bestia, perché soddisfa i suoi bisogni, ma è come se gli insegnasse a camminare ma lo lasciasse cieco, così non sa dove andare. Bisogna trasformare di colpo il nostro rapporto con gli africani in un rapporto a due vie, con gli africani, con quelli del Bangladesh, con quelli dell'Ucraina, perché poi li abbiamo anche, quelli dei nostri sobborghi, in maniera tale che le vere esigenze che loro ci propongono siano verso una forma di felicità, verso un modo di vivere, verso una cultura, non più verso semplicemente la sopravvivenza. Ma il libro naturalmente si articola, come tutti i veri saggi, in due parti. C'è un'introduzione, poi c'è la prima parte, ho il sospetto che riguardi piuttosto noi, miseria e povertà, e inizia con un capitoletto che ha un titolo: Quanti soldi hai? San Francesco era un criminale. Sì, perché è successo che un anno fa, mi pare di ricordare, c'è stato un disegno legge per cui essere mendicanti era a essere una barriera architettonica. È successo a Firenze quando i ciechi inciampavano nei mendicanti, quindi si poteva mendicare dai piedi, ma B, addirittura il chiedere la carità era diventato un reato, quindi automaticamente San Francesco, che era uno che si viveva di carità, lui la dava e la prendeva, era diventato un criminale. Io mi sono reso conto, in sostanza, guardando i santi uomini di Lalibela in Etiopia, che è facile moltiplicare pani e pesci, molto più difficile dividerli. Ed è questo il nostro problema. Sì, lì c'è un argomento assolutamente caro al mio cuore, perché la Libele è la capitale del cristianesimo copto etiopico. Cioè, il cristianesimo sta in quelle contrade africane dal IV secolo. Sì. E dal IV secolo vive, per esempio, una forma di monachesimo straordinario, che poi è da lì che è arrivato tramite le varie regole solo intorno al VI-VII secolo da noi in Europa. Insomma, quindi pensiamo di aver civilizzato il mondo e dimentichiamo che un sacco di cose le abbiamo ricevute, che so, dai santi che vivevano a Gaza, per esempio. Ma certamente, o tutta la musica moderna, tutta l'arte moderna. O dai monaci che vivevano alla Libele. Per cui ci sono anche delle teorie etnocentriche talmente idiote per cui sembrano quasi che alcuni popoli sono esclusi a priori, sì, da un'acquisizione culturale, come potrebbe essere, parlo di monachesimo, ma tradotto come potrebbe essere, per esempio, lo sviluppo. Assolutamente, ci sono dei mezzi locali di sviluppo, delle idee, dei sistemi autonomi che vengono regolarmente delusi da leggi di stampo europeo, da attività del tutto prive di informazione. Io chiamo quattro cavalieri dell'Apocalisse in Africa, che sono l'ignoranza, l'arroganza, la stupidità e l'amore. Perché l'amore talvolta compie dei delitti infiniti, perché è un amore inteso come lo intendiamo noi, senza assolutamente alcun riferimento culturale. Allora, finché non cambiamo paradigmi, difficilmente riusciremo a essere di scambio. No, ma abbia paura di dire certe cose, perché sono un prete, però sono stato in Africa e sono molto più arrabbiato di quanto possa fare su questo concetto di carità pelosa, per cui sì. Diciamo così, si trasforma tutto un continente in una terra di neretti bisognosi. Ci stanno un sacco. Beh, io mi sono trovato in Ogaden, che è al confine tra Etiopia e Somalia, a camminare con i nomadi, e questi a un certo punto ne abbiamo incontrato un gruppetto sperduto. E ero con un medico e abbiamo chiesto: ma avete dei problemi? E quelli ci hanno guardato e hanno detto: problemi? No. Poi uno dice: ma lei è un medico? Sì. Ah, guardi, mi sono punto con una spina del piede, se mi dà un'occhiata mi fa un piacere. Ora, trovarsi un luogo desolato dove non c'è nulla e trovare delle persone che hanno quattro stracci addosso, che ti dicono che non hanno problemi, allarga il cuore. Sì, allarga il cuore, e poi soprattutto anche qui ci sono, parliamo solamente dell'Africa, perché lo sguardo del libro di Alberto Salza è grande come il mondo. Si potrebbe anche parlare a quei grandi e straordinari cantieri dell'umanità, che sono paesi che a volte ricordiamo semplicemente per questo o quel problema politico, ma il Bangladesh sarà un paese del futuro. Sicuramente un paese del futuro. L'ultima volta che ci sono volato sopra credevo fosse tutto un deserto, invece era tutta un'inondazione. Mettono i numeri sulle masserizie di casa, perché ogni inondazione che viene così possono recuperarsi i mobili un pochettino, qualche chilometro a valle. Però, per esempio, il microcredito è nato lì, anche se secondo me il microcredito è un culto del cargo, cioè un'idea che risolverà tutti i problemi. Non è assolutamente vero, ha risolto sicuramente i problemi di Yunus, ma in sostanza voglio dire che alcune soluzioni autonome di straordinario interesse avvengono in paesi che mai più ci immagineremmo potessero fornirci qualche cosa di utile. Poi c'è nella sua seconda parte una vera e propria teoria del niente: niente cibo, niente acqua, niente casa, no toilette, niente salute, niente istruzione, niente pace, niente donne, niente vecchie, eccetera eccetera. Come mai questo niente preso come paradigma? Sì, mi sono messo a studiare. Il fatto è questo: la povertà è una questione quantitativa, cioè togliamo un po' di tutto alle persone. La miseria è una cosa più qualitativa. Togliamo una cosa sola, immaginiamo una cosa sola. Immaginate di essere privati del gabinetto domani mattina. La vostra vita diventa un inferno, se siete abitati in città, ma anche se abitate in un paese. E questo è quello che succede in moltissimi paesi dove un singolo elemento viene eliminato praticamente in modo totale. Questo crea un collasso del sistema generalizzato che porta alla miseria. Quando si dice che l'Africa non produce, dimentichiamo che hanno portato via 50 milioni di persone in due secoli. Proprio quando un'evoluzione, diciamo, di progresso si sarebbe potuta avverare. Ma quando si dice che in Francia i sociologi dello sviluppo legano i problemi economici dell'Africa un deficit demografico, se uno dice in Italia un salotto ben educato rischia di essere picchiato. Sì, sì, certo, soprattutto adesso poi con le polemiche preservativo sì, preservativo no, voglio dire, certo che aiuta un po' contro l'AIDS, non sarà la soluzione, però in ogni caso non è un problema. Ma è uno di quei problemi che dovrebbero risolvere gli africani a casa loro. Esattamente, sanno perfettamente come fare. Ci sono anche delle formule di controllo delle nascite in Africa da sempre. Se fossero così imbelli gli africani, gli indiani, i cinesi, sarebbero già svaniti dall'universo dell'uomo. Mentre invece sono ancora lì, anzi sono emergenti. Sono talmente emergenti che prima o poi ci arriveranno in casa. Poi ci sono delle voci all'inizio di ogni passaggio del libro, così adesso non ho una conoscenza tutta totale del libro, però noto così che se prendiamo qualcuna delle voci che ha raccolto in Europa, per esempio sulla morte un vecchio a Macedonia, non ti metterebbero gratis da nessuna parte, nemmeno nella tomba, oppure il futuro visto in Georgia, siamo nell'Europa storica, nel giro di 10 anni non ci sarà più un pensionato vivo, la maggioranza dei bambini sarà senza educazione perché si imporrà l'istruzione a pagamento, ci sarà la selezione del più adatto e quelli con meno principi vinceranno. Allora, molte di queste voci, tra l'altro, non sono raccolte da me, sono io uno straordinario rapporto dell'ONU. Allora, questo mi chiedo, le voci ci sono, perché non le ascoltiamo? Cioè, i rapporti vengono, un rapporto sugli slums è straordinario fatto dall'ONU, eppure gli unici che si occupano seriamente degli slums sono i Marines degli Stati Uniti, ovviamente perché il futuro sarà la guerra nelle città. Devo dire che la nostra cecità nei confronti dell'autoaffermazione di 3/4 dell'umanità è assolutamente idiota, se non suicida, ecco. Stiamo parlando con Alberto Salza, la nostra guida questa settimana, antropologo, autore di Niente, come si vive quando manca tutto, antropologia della miseria estrema. Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo. E di Alberto Salza, la nostra guida questa settimana, antropologo e autore di Niente, come si vive quando manca tutto, antropologia della miseria estrema, e per Spelling e Kupfer lo trovate in libreria in queste settimane perché è uscito il 17 febbraio, quindi un saggio appena giunto, che però ha una, diciamo così, dedica nell'ottava di copertina, tratto dall'opera di uno strano antropologo di nome Totò. È l'origine di tutto Totò in questo caso. Totò, nella parte di Felice Sciosciamocca, in Miseria e Nobiltà, disse: a casa nostra, nel caffè latte, non ci mettiamo niente, né il caffè né il latte. Per me è stata una folgorazione, ovviamente, perché mi sono reso veramente conto che, come sempre Totò diceva, appunto, l'appetito viene mangiando, ma la fame si ha col digiuno. Questo rapporto tra la miseria e la nobiltà è esattamente il succo del libro. Dov'è la miseria e dov'è la nobiltà? Che sono parametri che inventiamo noi? Chi dice chi è il povero, chi è il ricco? Questo è una questione di fondo. Sì, ma infatti stavo riflettendo anche alla forza abbastanza o del tutto relativa di alcune concettualizzazioni che poi in realtà vengono così rese esplicite, a volte in quei non incontri con l'altro che sono purtroppo il diffondersi delle vacanze di massa. Mm. per cui si riesce ad andare in posti dove appunto si vive proprio per principio, senza orologio, con il soggiorno di 8 giorni scandito rigorosamente dal conta secondi, non dal conta dall'orologio che conta le ore, o si riesce ad andare in posti dove sostanzialmente si può così strutturare la propria vita all'interno di qualcosa di estremamente semplice, ma anche di estremamente legato a ciò che si racconta, e invece ci si limita ad avere il riassunto delle cose. Per esempio, andare in Africa e non assistere a nessuna discussione, per esempio, a nessun racconto. Io ho dovuto fare il burattinaio per anni per apprendere quello che io chiamo il trilogo, cioè riuscire a parlare per intermediazione. Altrimenti l'antropologo si limita a osservare, comunque non funziona, perché in ogni caso interferisce con l'osservato, e spesso l'osservato non ha tanta voglia di essere osservato. Questo uso del burattino consente a far sì che io possa dire delle cose che personalmente non potrei e non verrebbero accettate, ma dette da un terzo va bene, e analogamente con l'assemblea locale, che dice la sua, ha una testa di legno e quindi non la dice a me, può anche essere insultante senza ricevere dei guai. Questo grande sforzo comunicativo mi ha portato al più grande successo antropologico della mia vita. In mezzo a una carestia spaventosa, in mezzo non c'erano neanche più le mosche, i mulattieri la sera tiravano giù i basti, si mettevano intorno al fuoco e dicevano: Alberto, storie. E io gli raccontavo la meccanica quantistica, l'evoluzione umana, il fatto che mio padre lavorava alla Fiat 8 ore al giorno per 40 anni. E alla fine loro ridevano e dicevano: guarda, gran belle storie, le racconti anche bene, peccato che siano tutte delle frottole. Ma il riuscire a sollevare qualcuno da una condizione abbastanza pesante con una storia è una delle cose che ricordo più volentieri. Sì, ma infatti poi in realtà anche, va bene che qualcuno ha detto che non c'è peggior sordo di chi non voglia sentire, però per esempio si parlava dell'Islam, in realtà noi siamo intorcinati dal 2001 intorno a un grande racconto dei rapporti islamo-cristiani, o diciamo così Oriente-Occidente, che in realtà è scritto e codificato da una determinata cultura, quella islamo-araba, perché nei paesi dove questa codifica è avvenuta, per quel fenomeno che in tanti hanno così definito una specie di rullo compressore, il 99% della popolazione essendo islamica, i rapporti con i non islamici li scrive in un certo modo. Ma in paesi africani o asiatici, per esempio si parla del Bangladesh o dell'Indonesia, dove la proporzione, pur essendo talmente grande, è concepita in un altro modo, o dove per esempio la proporzione è 20%, noi già abbiamo sotto gli occhi la codifica di un altro tipo di rapporto, sarà quello futuro, eppure non vogliamo assolutamente riconoscerlo. No, noi procediamo per semplificazioni estreme, noi siamo aristotelici, abbiamo out o non, o è una cosa è questa o è il non questo. E invece tutte le sfumature intermedie, tutto ciò che c'è al centro, quelle che in termini tecnici si chiama logica fasi, logica incerta, che è degli anni 30, è una logica molto interessante perché consente la logica della qualità. Invece per noi o è bianco o è nero, o è cattivo o è buono, e tutto ciò non corrisponde minimamente alla realtà. Occorre tutto un modello di pensiero più sfumato, più integrato. Per dire, ho usato un'analisi genetica in 7 popolazioni del nord del Kenya che si stavano ammazzando e ho scoperto che erano tutti parenti. Allora, ovviamente, la genetica, invece di identificare i colpevoli di qua e di là e non riuscirci perché non può farlo, potrebbe invece dimostrare ampiamente come tutti in fondo siamo un continuum genetico, cioè siamo tutti uno appiccicato all'altro. Nessuno scienziato può dire che esistono le tribù, non è vero. Solo che quando un articolo ha dimostrato che ebrei e palestinesi erano identici geneticamente, l'articolo è stato messo nel cassetto per 10 anni. Sì, ma infatti ho, diciamo così, il vago sospetto che stiamo usando parole molto difficili anche per i nostri ascoltatori, visto che persino in chiesa, quando si usa la parola tolleranza, la gente all'improvviso comincia a guardare i lampadari. Ma io non la detesto la tolleranza, io non voglio, pretendo il rispetto. Se qualcuno mi tollerasse, io sarei furibondo. In Africa mi tollerano perché sono povero, disgraziato, sono a loro spese, peso su tutta la loro famiglia, do fastidio, faccio domande importuni, mi comporto da schifo e loro mi tollerano. Ma io questo lo capisco perché mi ci metto io nella situazione. Ma quando raggiungo l'optimum è proprio il rispetto. Quando uno dice ti rispetto, trovo bellissimo. Quando mi hanno portato a benedire un ragazzo che era cattivissimo, che faceva botte con tutti, e dice benedicilo tu perché non sappiamo più a che santo votarci, mi sono sentito meglio perché forse avevo ottenuto un minimo di rispetto. No, ma lo usavo così, con il proprio nel senso latino del tollere, del prendere, perché, sì, perché poi in realtà non c'è in questi nostri confusi rapporti un mondo globalizzato inventato a tavolino. Da una parte la paura che di fronte al nostro tutto questi che non hanno niente vengono solo per invertire le parti. In realtà non ha niente non ha voglia di diventare come noi. Non è che tutti hanno voglia di diventare a nostra immagine e somiglianza. Io mi sono lavato una volta dopo 20 giorni di marcia nel deserto, arrivo, c'era un lago, e questo africano pastore dromedari, quindi una persona abbastanza ignorante, che mi guarda e fa: tu lava, tanto nero come me non diventerai mai. E mi sono reso conto che in Africa il bianco è il colore dello sporco, perché se tu sei tutto nero, qualunque cosa sopra schiarisce il tuo colore. È stata una bella inversione di comprensione. È capitato anche a me, stavo davanti alla mia chiesa, sentivo un bambino che arrivava a piangere e la mamma che diceva: guarda, se continua a piangere chiamo l'uomo bianco. E proprio dietro l'angolo sì, sbuco io e vedo ancora gli occhi spaventati del bambino. Sono tutti convinti che siamo cannibali. Sì, appunto, se si chiede chi sono i cannibali, sì, i portoghesi e gli italiani soprattutto. Sì, anche perché poi siamo cristiani e quindi cattolici e quindi facciamo la comunione. Questa cosa di mangiare Dio fa una certa impressione da quelle parti. Abbiamo ancora un'altra massima del grande antropologo Totò per chiudere questa nostra puntata. La vogliamo leggere? La girerei questa volta a un non Totò, che è Cormac McCarthy, che è l'antitesi in qualche modo di Totò, che scrive in Non è un paese per vecchi: ma da qualche parte intorno a noi esiste un'altra visione del mondo e altri occhi per vederlo, ed è lì che questa storia sta andando a parare. Alberto Salza, la nostra guida questa settimana, è autore di Niente, come si vive quando manca tutto, antropologia della miseria estrema, e per Sperling e Kupfer. Lo trovate in libreria appena giunto dal mese di febbraio, uno sguardo sul mondo che vi raccomandiamo. Grazie per la sua guida, grazie a voi che ci seguite, grazie a Riccardo e a Valerio, il regista e il redattore, e a risentirci.